Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Fratelli e sorelle, buonasera. Non lasciate rubare la speranza, quella che ci dà Gesù. Ma di che cosa deve spogliarsi la Chiesa? Deve spogliarsi oggi di un pericolo gravissimo, il pericolo della mondanità. Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. La globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere. Dio ha voluto che al centro del mondo sia l'uomo, l'uomo e la donna ne portino avanti il mondo. La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma nasce dall'aver incontrato una persona, Gesù. Non posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio al largo di Lampedusa. Mi viene la parola vergogna. Non sia soltanto un sorriso di impiegato cordiale, un impiegato della Chiesa che viene e vi dice coraggio. No, questo non lo voglio. Io vorrei che questo coraggio venga da dentro e mi spinga a fare del tutto come pastore, come uomo. Cari giovani, prima di dare la benedizione, io volevo dirvi un'altra cosa. Questa è la domanda che io vi lascio. Sono disposto, sono disposta a prendere una strada per costruire un mondo migliore? Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Buona domenica e buon pranzo. Buongiorno. Oggi, avete capito, parliamo del Papa, di un pontefice che con i suoi discorsi, ma soprattutto con i suoi comportamenti, in poco più di 6 mesi ha conquistato il cuore di milioni di persone, credenti e non credenti, e con il suo spirito schietto, mai clericale, in qualche modo sta rivoltando la Chiesa. La figura del Papa non sembra essere mai stata così vicina alla gente e così lontana dalla rappresentazione simbolica che si è avuta per tanti secoli. Ecco, il punto di partenza del nostro ragionamento è proprio questo. Vi ricordo intanto che il nostro numero di telefono è 800 24 00 24, il numero degli sms 349 238 6666. Il papato, dicevo, quindi il Papa deve essere vicino, immerso nel popolo come Francesco, o questo alla lunga potrà essere un problema per l'immagine, l'autorevolezza stessa che il Papa deve anche avere. Ecco, i miei compagni di viaggio in questa riflessione sono Mario Secchi, che ha scritto un articolo sul Foglio sulla necessità, buongiorno, del Papa, buongiorno, di essere lontano e non vicino. Pietrangelo Buttafuoco, buongiorno, buongiorno, con la sua idea di spiritualità e i simboli che la rappresentano. Gianni Gennari, buongiorno, buongiorno, teologo molto informato sulle cose interne della Chiesa, oltre che autore del libro Teresa di Lisieux, Il fascino della santità, libro che tra l'altro il Papa aveva nella sua borsa, la famosa borsa, durante il suo viaggio in Brasile. Beh, una bella soddisfazione, Gianni, eh? Sì, una bella soddisfazione, a mia insaputa, questo viene. Vabbè, bene. È quella doppia soddisfazione. E al telefono abbiamo padre Giulio Albanese, autore anche lui del libro Missione Extra Large, direttore di Popolo e Missione, libro, dicevo, nel quale con un anno di anticipo ha scritto cose molto simili a quelle che sta predicando Papa Francesco. Ricordo i nostri numeri 800 24 00 24. Intanto saluto Giulio Albanese, che spero sia al telefono. Ecco, buongiorno. Ecco, vi piace Papa Francesco? È giusta la sua vicinanza al popolo oppure perde carisma? Mario, partiamo dal tuo articolo. Perché questa distanza per te è un problema per il Papa, per il papato, insomma? Sì, per il papato, userei l'espressione papato, non la figura singola, ma l'istituzione del papato, la sacra istituzione del papato. Perché il sacro è necessariamente anche distante. Può essere vicino, in molte occasioni, ma deve essere necessariamente distante. Perché? Perché ciò che è sacro è avvolto anche dal mistero. E se tu sei troppo vicino, il mistero sparisce. E se sparisce il mistero, sparisce la fede. È un meccanismo che riguarda la comunicazione, ma riguarda l'essenza stessa della religione, in particolare della religione cattolica. Ed è un meccanismo che riguarda anche la figura del sovrano. Vorrei ricordare che il Papa non è solo capo spirituale, ma anche materiale e temporale. Il papato è ordine, il papato è legge, il papato è punizione, il papato è perdono. Nel potere temporale del papato, che si esercita tuttora ovviamente, c'è questa figura del sovrano. E quindi tu lo vuoi lontano per queste ragioni. Io leggo Mark Bloch, che scrisse un saggio fantastico all'inizio del secolo, di questo secolo, sui sovrani, e dove si sosteneva la necessità della distanza. Se sparisce la distanza, per il papato ci sono più problemi. Spariscono i simboli del potere, la rappresentazione. Sparisce la rappresentazione. La sacralità, secondo la te, sacralità. È legata, guarda, alla distanza. La filosofia parte tutta da Platone. E Platone diceva che la realtà è una rappresentazione, cioè l'idea. E la rappresentazione del Papa troppo vicino può essere un problema per il papato. Gianni Gennari. Mi spiace dover dire che Sepi ha un'idea di sacro che è esattamente l'opposto, ma diametralmente opposto, del Vangelo di Gesù Cristo. Perché il modello del vicario di Cristo, fino a prova contraria, è Gesù. Gesù ha avuto un solo trono, la croce. Gesù è stato vicino, lavava i piedi ai suoi discepoli. Gesù si è lasciato baciare i piedi dalla prostituta nella casa di Simone. Gesù abbracciava i bambini. Gesù non ha mai detto io sono il primo, ha detto io, Signore, vi servo. Allora, il problema è questo. Gregorio Magno mangiava ogni giorno con i poveri del quartiere dove aveva la sua casa. L'idea di sacro che Sepi ha non ha nulla a che vedere con la scrittura. Mario Secchi. Nulla. Io l'ho letto, eccolo qua, l'ho letto. 17 volte lui nel suo articolo parla di distanza, certo, che è esattamente l'opposto di ciò che il Papa deve essere. Allora il problema di fondo è, si tratta di intendersi su che razza di cosa è il cristianesimo, che non è una religione. Le religioni inventate dagli uomini hanno ipotizzato la distanza, certo il luminoso, ecco Bloch che lui ricorda, il luminoso, l'onnipotenza, il mistero. Gesù è venuto feci tutra que unum, ha fatto di due cose una cosa sola. Il pontefice è quello che fa il ponte, quindi cancella le distanze. Che dal tuo punto di vista, anzi, Francesco si inserisce nel solco diretto della testimonianza di Gesù Cristo. Ecco, modo di essere, io volevo di essere sapere, vicari di Cristo. Da parte di Pietrangelo, tu, dal tuo punto di vista, concordi con Secchi o con Gennari, oppure c'hai un'altra idea? Un'altra idea, però parto da un fatto. Mario Secchi ha ragione. Il pathos della distanza ha un'efficacia politica e anche teologica. Ma Gianni Gennari ha ragione quando ricorda il ruolo e la storicità e l'efficacia carismatica del Cristo. Ma c'è un altro discorso da fare, che è quello della presenza della Chiesa. La Chiesa nei secoli ha determinato, ha costituito e ha informato di sé perfino tutto l'orizzonte occidentale. Per cui io porrei la questione in altri termini. Noi stiamo discutendo qui il ruolo di Francesco, vescovo di Roma, e vogliamo capire se è una novità. Io dico che non è una novità. perché comunque quella sua idea anche di Gianni dice che non è una novità, quella sua idea di pontificato rispecchia, se posso azzardare un paragone storico, quello che la coscienza civile italiana conobbe al tempo di Pio IX, perché si somigliano tantissimo, perfino nei comportamenti. La scena e l'immagine del bambino che piange tra i vetri rotti, il pontefice che dopo la sua giornata di lavoro fa la passeggiata per le strade di Roma, lo incontra e chiede: cos'è successo, bambino mio? Si è rotto il bottiglione di vino che avevo comprato. E quindi vanno dall'oste, comprano la bottiglia di vino, vanno a casa, portano e c'è la festa. E poi un altro parallelo importante: era amato, apprezzato dai radicali del tempo, dai liberali del tempo, dai mangiapreti del tempo, dai laici del tempo. E posso dire che c'è anche un altro parallelo gustoso, perché il Leone Caetani, con cui intratteneva un epistolario piuttosto ricco Pio IX, somiglia tantissimo al nostro Eugenio Scalfari. Ma va alla barba, io me lo ricordo. Al telefono, l'ho detto prima, abbiamo padre Giulio Albanese. Ecco, Giulio, per te questo Papa, per sua stessa missione, dice di venire dalla fine del mondo. Ecco, queste sono parole che ci si aspettava dal Papa, visto dal tuo osservatorio, che è un osservatorio che fa dell'altra parte del mondo il centro del suo lavoro? Guarda, devo essere molto sincero, non condivido la posizione di Secchi proprio da un punto di vista missionario, perché non v'è dubbio che noi viviamo in una società che schizza via alla velocità della luce, e dunque è importante, come peraltro auspicato dal Concilio, essere in grado di cogliere i segni dei tempi, e credo che da questo punto di vista il Vescovo di Roma ha avuto la perspicacia di capire che in un mondo che cambia bisogna davvero tornare indietro con la moviola della storia, agli inizi, alla cosiddetta primigenia inspiratio, non fosse altro perché, come diceva pertinentemente Gianni Gennari, il messaggio evangelico è un messaggio incarnato nella storia. E guarda che gli effetti devastanti di questa allontananza di Dio, di questo Dio absconditus, li vediamo tutti i giorni. Noi viviamo in un paese, l'Italia, in cui vi è una sorta di schizofrenia, bipolarismo, tra quello che viene celebrato in chiesa durante le sante messe e quello che poi avviene nell'agorà, nelle piazze, nei crocicchi delle strade. La distanza è infinita, cioè. Per cui vi è un cortocircuito evidentissimo tra quella che è la dimensione valoriale del Vangelo e quello che poi si dovrebbe tradurre in azione pratica di fede. Da questo punto di vista Papa Francesco ci dice che dobbiamo capire che la missione parte dalla periferia, cioè dai bassi fondi della storia, perché proprio in Galilea è iniziato il suo ministero, ed è un ministero che afferma il mondo capovolto di Dio. E se le beatitudini le avessimo scritte noi, ammettiamolo, faccio riferimento proprio all'inizio, al prologo del discorso della montagna, quando Gesù proclama le beatitudini, ebbene, quello è il mondo capovolto di Dio, una visione davvero radicale, ecco, che non corrisponde assolutamente al nostro modo di pensare. Giulio, noi abbiamo ricevuto moltissimi sms, immediatamente ne leggo qualcuno. Da agnostico dico che se chi sbaglia, di papi distanti ne abbiamo avuti anche troppi, buona giornata. La fede nasce da Cristo e Cristo è venuto in mezzo agli uomini. Poi un'altra che dice: il Papa usa parole commoventi, ma sostanzialmente cosa fa? Ecco, mi sembra che siano più che altro, il signor Papa non è digiuno di marketing, questa è un'interpretazione molto... Non è digiuno di marketing, dice di marketing. Forse anche, ecco, però il Papa... Nessuno può essere digiuno di Marx. Io conosco tutti, un sacco di gente digiuna di molte cose. Siamo tutti sulle spalle, anche sue, che ha combinato un sacco di guai. Però di Marx o del Papa? Marx. Ma Carletto riposa in pace a Londra. Però Giulio ha posto una domanda a Mario, che se vuoi rispondere rapidamente prima di passare al Papa politico. Ma dunque, il tema della distanza è un tema importante, fondamentale, perché pone il Papa sopra e non sotto. Pone il Papa sopra e non tra. Ma dove userò, scusa, Gennaro, aspetta. Dove lo userò, userò la metafora, userò la metafora del gregge e del pastore. Per dire che il pastore non si fa pecora. È una metafora molto efficace che viene usata, no? Nella Chiesa, per definire che cosa? La guida suprema. I ruoli. La guida suprema, i ruoli. Il mio problema non è, e quello di molti altri, non è Francesco. Il mio problema è l'istituzione del papato, che è la guida. Si può essere guida tra la gente? La risposta è sì, ovviamente, e bisogna esserlo. Ma non si può essere guida se si finisce involontariamente per banalizzare il messaggio, il sacro. Abbiamo un SMS, abbiamo un SMS, chiedo scusa, abbiamo un SMS che dice: questo Papa disorienta i massoni e plutocrati perché è imprevedibile, perché si avvicina alla gente. Senti, io scusa, volevo un attimo, dire questo, Giovanni, sì, rapidamente, perché dobbiamo andare avanti. Io ho tra le mani il titolo del discorso che ha fatto ieri il Papa. Il Papa: adoriamo Dio, amiamo il prossimo. Vi pare banalizzato questo? È la sostanza. Gesù ha detto: i comandamenti sono due, amerai il Signore Dio tu, amerai il prossimo. Come però, c'è un rischio, però c'è un il rischio. Il Papa è il vicario di Cristo, mica è il vicario di Cesare o il vicario di... Noi non... Di appunto, saremo uno per volta, scusate. Perché se Giovanni, io credo che il tema sia non tanto di inoltrarsi in un ambito teologico, ma cioè, anche gli effetti. E purtroppo, con tutto il rispetto dovuto a un capo spirituale, è vero che si è impossessata tutta una fuffa mediatica che non riesce più a distinguere quello che è il messaggio giusto di un capo spirituale con le parole che può dire un giovanotti. Perché lo dico con assoluto rispetto, perché io voglio salvaguardare proprio quello che è il ruolo di un capo spirituale. E lo vuoi purtroppo salvaguardare alla faccia del capo spirituale? Io sto dicendo uno per volta, per favore, perché sì, sennò non sentiamo. Sto dicendo che ci sono dei meccanismi che conosciamo bene, perché siamo tutti con le corna lunghe facendo questo mestiere, che sono di semplificazione e che certamente, siccome noi abbiamo a disposizione una televisione che si preoccupa di certe stupidaggini, non certamente dell'angelo di Dio, sappiamo perfettamente che la scristianizzazione, qui Giulio Albanese lo può ben capire. Infatti vorrei sentire Giulio. È veramente terra su cui fare missione, ma qui. Giulio! Sì. Stai seguendo? Sento. Ecco, volevo Sto sentire la tua. È estremamente appassionante questa conversazione. Vorrei sapere la tua. Ma guarda, il discorso di fondo dal mio punto di vista è questo, che il messaggio evangelico è una risposta di Dio a quelli che sono i nostri problemi, le nostre attese, e quindi da questo punto di vista la responsabilità grande che noi abbiamo è di saper cogliere questa novità evangelica, che, se volete, tradotto nel linguaggio contemporaneo, ecco, è davvero semplice. Innovazione. Ecco. Noi, inutile nascondercelo, abbiamo ridotto il cristianesimo a un compendio di leggi, leggine e dottrine, e dunque l'aspetto, la dimensione del dovere ha preso il sopravvento al punto tale che ha generato spesso nelle coscienze una sorta di repulsione. E invece questo Papa... Quello che è importante comprendere è che il messaggio evangelico è un'esperienza di vita. È un essere. La dimensione esperienziale è fondamentale. Papa Francesco, da questo punto di vista, ci sta... Propone questo modello. Con le spalle al muro. Ecco, ma il Papa, da politico qual è? È intervenuto in modo chiaro e durissimo, con parole sue, con la sua diplomazia, anche quando stava per scatenarsi un inferno in Siria. Sentiamo le sue parole. È davvero una guerra per problemi, o è una guerra commerciale per vendere queste armi nel commercio illegale? Ecco, Francisco Mele, che è il successore di Bergoglio alla cattedra di psicologia al Collegio Universitario dei Gesuiti di Buenos Aires, conosce molto bene Bergoglio, dice... Leggo: Francesco è un grande stratega, mi ricorda Napoleone, come l'imperatore stava vicino ai suoi soldati. Questo Papa ama mescolarsi al suo popolo e ai suoi preti per incoraggiarli e spingerli verso le missioni pastorali. È così? Io Gianni, personalmente penso di sì, a parte il paragone con Napoleone, che perdeva, vinceva le battaglie ma perdeva le guerre, meglio i romani che perdevano le battaglie ma hanno sempre vinto le guerre. Però in ogni modo io ritengo che questo Papa stia a poco realizzando quello che è stato il sogno di Paolo, di Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, il concilio. Il concilio nella sua sostanza è il Vaticano II, che comincia poco a poco a camminare. Io ho tra le mani un appello di 500 vescovi del 16 novembre 1965 consegnato a Paolo VI, i cui punti, le richieste, leggo. No, leggi rapidamente. No, ne leggo uno solo. Ecco. Ne leggo uno solo. Cercheremo di vivere come vive ordinariamente la nostra gente per quanto riguarda casa, alimentazione e mezzi di trasporto. Rinunciamo per sempre all'apparenza e alla realtà della ricchezza, specialmente negli ambiti. Quindi e nelle c'è una coerenza, una coerenza col Concilio. Io da padre albanese volevo sapere questo, quello di dare unità all'America del Sud, perché questo è un Papa che viene dalla fine del mondo, l'ha detto, e porta anche un'esperienza che viene dalla fine del mondo, e quindi quello di dare unità all'America del Sud e più in generale, in qualche modo, contrapporre il Sud del mondo allo strapotere degli Stati Uniti. Ci sono segni di questo disegno politico nelle prime mosse di Francesco oppure no? Allora, lasciami dire che la citazione del patto delle catacombe di Gianni Gennari è straordinario e per certi versi anticipa la mia risposta, perché poi in fondo il bisogno grande che noi tutti avvertiamo è quello di affermare una giustizia planetaria in un mondo in cui la divaricazione tra ricchi e poveri a causa della crisi che stiamo vivendo, crisi dei mercati, crisi finanziaria, è tale perché sta crescendo a dismisura, si sta aprendo a dismisura la forbice. Ed ecco che allora Papa Francesco ha capito davvero, col cuore e con la mente, che bisogna stare dalla parte degli ultimi. Questo cosa significa? Significa poi naturalmente portare avanti anche iniziative politiche non partitiche che in una maniera o nell'altra riescano ad affermare il bene comune, la solidarietà, la sussidiarietà. In questo senso Papa Francesco, dal mio punto di vista, è davvero l'unico statista che in questo momento noi abbiamo sul palcoscenico della storia. Perché mentre abbiamo dei politici, mi dispiace dirlo, che rispondono al diktat dell'interesse, lo si voglia o no, la loro preoccupazione, Giulio, il pareggio di bilancio o quant'altro, Papa Francesco mette al primo posto la persona umana. Ecco. Ma no, adesso dobbiamo andare in pubblicità. Dopo la pubblicità abbiamo un rilancio di questo discorso proprio con le parole di Papa Francesco. Pubblicità. Mix 24. Non è un problema soltanto dell'Italia o di alcuni paesi d'Europa, è la conseguenza di una scelta mondiale, di un sistema economico. Un sistema economico che ha al centro un idolo che si chiama denaro. Ecco, questo era Papa Bergoglio. Siamo di nuovo in diretta naturalmente a Mix 24. Il nostro numero, lo ricordo, 800 24 00 24, numero degli sms 349 238 6666. Questo era Papa Bergoglio a Cagliari con un'accusa molto molto diretta e molto precisa, che ci porta in qualche modo a pensare che dietro alla Chiesa dei poveri, per i poveri, c'è un progetto politico, il sud del mondo in qualche modo contrapposto al nord del mondo. E così, padre albanese, scusa. Certamente. Ti chiamavo Papa. Bene, quello che sta dicendo Papa Bergoglio non è altro che l'affermazione di quella che è la globalizzazione intelligente e perspicace di Dio, la globalizzazione della solidarietà, contrapposta a quella dell'indifferenza, di cui naturalmente ha parlato alla. Ecco, ma c'è un progetto politico preciso, lui identifica dei tratti di. Intendiamoci, il progetto è politico, ma rivolto alla polis in senso planetario, alla res pubblica dei popoli, perché se andiamo avanti così ci facciamo tutti male. E credo che questo sia nell'interesse dei poveri, ma direi anche nell'interesse del mercato, perché se questa economia planetaria non viene redenta, se continuiamo a mettere in circolazione prodotti derivati, i quali hanno inquinato i mercati finanziari, se non vi sono delle regole, se continuiamo a muoverci secondo la logica del profitto, la massimizzazione del profitto, beh, i risultati sono evidenti. E quindi il Papa in modo chiaro si contrappone. Abbiamo Antonello da Siracusa. Antonello, buongiorno. Buongiorno a lei, ai suoi ospiti e a tutti i suoi ascoltatori. Dica. Io sono la voce del laicato impegnato, cioè quello nelle parrocchie dell'Azione Cattolica e della Caritas, perché sono il responsabile dell'Osservatorio della Caritas. Sì. La domanda è semplicemente questa. Alla fine mi chiedo se il Santo Padre, in tutta questa operazione assolutamente significativa e per noi centrale, perché ci sta dando l'opportunità di rivedere il nostro impegno all'interno della Chiesa, se non sia anche un'occasione per rafforzarsi all'interno della Curia, essere molto sostenuto dalle persone e poter realizzare effettivamente quel cambiamento della Curia. Vabbè, questa è naturalmente è una possibilità strategica che la sua azione potrebbe contenere. Grazie mille. L'altra telefonata? Abbiamo Salvatore da Genova. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Niente, un piccolo intervento, forse anche un po' banale. E io qualche tempo fa ho visto un film di qualche anno fa e si chiama L'uomo venuto dal Cremlino con la K. Il Cremlino è scritto con la K. Ora, cosa c'entra tutto questo col discorso che voglio fare? Semplicemente, io ammiro moltissimo Papa Francesco, sono abbastanza d'accordo sul fatto della distanza per avere una parvenza di santità. L'unica cosa che, se avessi la possibilità, sarà difficile di dire a Papa Francesco, io chiamo sempre Papa perché chiamarlo Francesco è si avvicina molto al discorso di troppo avvicinamento. Ecco, di seguire quel film, perché in quel film a un certo punto il Papa è venuto dal Cremlino, oltre a intervenire con le parole eccetera, interviene con dei fatti molto importanti. Certo. Cioè, io non so se qualcuno di voi l'ha seguito questo film, perché è abbastanza vecchiotto, però è emblematico in riferimento al fatto che a un certo punto la Chiesa prende una posizione e a livello proprio di potere temporale. Noi a proposito, grazie, a proposito del potere temporale, un SMS ci dice: state trascurando due punti essenziali. La Chiesa deve continuare ad avere potere temporale, punto interrogativo, e poi Francesco interpreta forse per primo il Papa globale, perché conosce il sud del mondo. Di questo è quello di cui stiamo parlando. Ma la prima parte, dimmi Mario no, Secchi. Solo per dire che sul progetto politico probabilmente questo emergerà. La Chiesa è di per sé rivoluzionaria. Ci sono dei libri fantastici scritti su questo, ne consiglio uno di Huntington, La terza ondata, che analizza in parte quello che fece Giovanni Paolo II, che era un altro uomo, Giovanni, che veniva dalla fine del mondo, perché vorrei ricordare che veniva dalla Polonia. Certo. Con tutto quello che ne consegue, l'invasione dei nazisti, il comunismo, la non libertà che non esisteva. Quindi il progetto politico probabilmente di Bergoglio emergerà e noi potremmo giudicarlo però più in là. Certo, quando il suo papato si sarà espresso anche in questo punto di vista. Il tema di adesso... Segnale c'è, appunto, esatto, c'è di questi discorsi, di qualche segnale c'è, non è ancora chiaro che cosa vuole fare. Il tema di adesso è come esplica, come rappresenta il papato Papa Francesco. Questo è il punto fondamentale allo Stato. Vi lancio una provocazione che non è mia, tra l'altro, ma di altri colleghi che fanno i vaticanisti di professione, tipo Sandro Magister, tanto per citarne uno, e non solo lui. Per esempio, le interviste sono le nuove encicliche? Perché questo è un tema, se sono le nuove encicliche... Ma pensate che le interviste siano le nuove encicliche... Lo pensano, ripeto, eminenti vaticanisti, non, vabbè, non comunque, io. Comunque è una ricchezza in più, anche Putin... Anche Putin scrive, superando tutta la gerarchia e la modalità tradizionale, scrive direttamente al popolo americano esprimendosi sul New York Times. Forse c'è obiettivamente un salto di qualità nelle modalità tradizionali di comunicazione, perché il mondo multimediale è un molto multimediale per tutti. Volevi dire una cosa? Sì, io volevo dire che il concetto di pathos della distanza che giustamente Mario Secchi ha tirato nella discussione in ballo, è un concetto di Federico Nietzsche, e lui è testimone di una delle più grandi e più atroci sofferenze di adesione, di ricerca del cristianesimo mettendosi fuori dalla cristianità, ed è un capitolo bellissimo, struggente, a cui che merita rispetto. Ma quello che vorrei dire a proposito di Papa Francesco e della discussione a questo punto in termini politici è che comunque c'è un fatto inaudito. Per la prima volta nella storia un pontefice di Santa Romana Chiesa ha evocato due concetti che appartengono al capitolo più atroce della storia dell'uomo, della Rivoluzione Francese, ed è il concetto, la categoria di destra e di sinistra. E siccome non voglio essere malizioso, io dico che è preoccupante che la testimonianza di un capo spirituale possa poi scatenare la fuffa in quella che è da sempre stata il quasi quasi mi butto a sinistra. Farsi percepire quindi in una posizione di rendita che è aprire un credito con il mondo. Insomma, che determina papa, l'egemonia del linguaggio, un papa che parla di destra e di sinistra. No, non ha parlato di destra e di sinistra, lui ha detto non sono mai stato di destra nel contesto, è una cosa ancora più furba, ma lui è un argentino, è una furbata. Siccome era stato accusato di aver collaborato con il generale Videla e con la giunta assassina che ha fatto il colpo di Stato in Argentina, lui ha detto non sono mai stato di destra. Ma questo non è un discorso politico, è un discorso personale. Chiariamoci a me hanno detto per tanti anni sei comunista. Non sono mai stato comunista, parlavo sono con i comunisti, parliamo un attimo con la viabilità. Io devo dare la viabilità, non si sposta mai a sinistra. La viabilità c'è sempre, c'è sempre. Mix 24, carica d'incenso alle pareti, le stazioni del Calvario, gente fintamente assorta che aspettava la redenzione dei peccati. Pietrangelo, hai scelto questa canzone per rientrare nella discussione? Ho scelto questa canzone perché lui, l'autore Franco Battiato, molto spesso fa delle canzoni che la gente ritiene essere canzoni d'amore, invece sono preghiere, e perché con scalo e grado lui descrive questo sentimento diffuso, spontaneo, immediato del popolo che cerca l'Eterno. Bello. Gianni, volevi chiudere perché siamo in chiusura di questa parte della trasmissione, della notizia in 3D, lo ricordo, curata da Sara Tardelli, una battuta di chiusura. No, io voglio solo dire che quando si tratta di potere temporale della Chiesa, è un frutto della storia, però se per potere temporale della Chiesa significa che essa è ascoltata dai cittadini, allora è una cosa che a mio parere deve rimanere. Cioè, il problema, la Chiesa come tale non può far politica direttamente, ma se le indicazioni della Chiesa vengono prese sul serio dai laici autenticamente e liberamente, eccetera, è un potere autentico e credo che sia importante. Naturalmente nella prossima puntata, perché è soltanto la prima rispetto a questo tema, affronteremo un tema molto terreno, che è quello dello IOR e della riforma dello IOR che il Papa ha intrapreso in questo momento. Naturalmente adesso passiamo sigla e le bolle. Eccoci qua. Allora, Mario. Allora, voltiamo pagina. dal sacro al profano, ma sempre sacro, perché governo è, come sai, eccetera. Allora, il Grand Old Party, cioè il Partito Repubblicano, signore e signori, si è suicidato, perché ha siglato l'accordo in extremis in 11 ore con i democratici al Congresso americano. Non ci sarà lo shutdown. Cioè ha vinto Obama? Ha stravinto Obama, questa è la verità. È molto interessante, leggevo stamattina un sondaggio di Gallup che ha rilevato il peggior crollo nella storia dei sondaggi per il Partito Repubblicano, 10 punti in pochissimi giorni. Se non torna Ronald Reagan o un Bush, questi non vincono più per molto tempo. Questa è la verità, e tra l'altro personalmente pure dispiaciuto, ma insomma, ti dico solo un dato. Pure reganiano sei? Reganiano, certamente. Ah, è peccato? Certo, no, no, è una notizia. Io sono rimasto kennediano. Io anti-americano, così non sbaglio. Io sto con Obama. Vabbè, molto bene. Chiediamo anche alla regia. No, ti do un dato. Secondo le stime, il periodo di chiusura del governo è costato 24 miliardi di dollari. Quindi, questi 15 giorni? Sì, sì, sì. Beh, ma sai, hanno chiuso tutti i parchi, perdevano 200 milioni di dollari al giorno. Ma scusa, costato o risparmiato? Costato, perché tu sai bene che la mia spesa è il reddito di un altro. Allora, merkeliana, sembra di stare in Italia, ma non lo è. Angela Merkel comincia il secondo round di consultazioni. Sono falliti i suoi incontri con i Verdi, come volevasi dimostrare, era un po' come Bersani con Grillo, diciamo. Sì. La differenza è che Angela sta facendo questo secondo giro, quindi vedrà i socialdemocratici, perché deve mettere tutti i punti per iscritto. Andranno, diciamo, le larghe intese, insomma. Sì, beh, certo. Oh. Questo è evidente, solo che le fanno alla tedesca, cioè con una trattativa molto serrata, molto su serrata, punti precisi e immodificabili. Vogliamo fare due cose italiane? Vabbè, ci diventiamo tristi subito. Allora, la manovra all'italiana prevede che tu approvi la copertina, un testo. È peccato che poi si scriva altro. Per esempio, sta spuntando fuori una cosa molto interessante, una clausola di salvaguardia si chiama, cioè se i conti dovessero peggiorare arriveranno dei tagli lineari o meno, questo poi si vedrà, alle detrazioni IRPEF. Come vedi, noi avevamo letto un'altra cosa. Accidenti. E mentre... cioè si trasforma strada facendo questa legge. Beh, nella prima Repubblica approvavano la copertina. Devo dire che io l'ho visto fare anche nella seconda, l'approvazione della copertina. Adesso devono mandare un fax all'Unione Europea, appunto, a Bruxelles. Un po' dettagliato, mi sembra, il fax che devono mandare. Sì, dovevano mandare un fax dettagliato, ma a quanto pare non c'è tutto. Quindi qua stiamo così. Tieni presente che Enrico Letta è a Washington, a proposito di cose americane, incontra Obama e fanno dichiarazioni congiunte, sono previste alla Casa Bianca, e poi farà uno speech, come si dice, sì, quando si va nei paesi anglosassoni, alla Brookings Institution, che è un importante think tank. E sarà un discorso americano. Importante secondo te? E non lo so, perché nel frattempo in Italia, e siamo al replay di una cosa vista qualche giorno fa, Berlusconi pensa di nuovo alla crisi. E questo, sulla ipotesi di crisi di Berlusconi, vorrei sentire la bolla di Buottafuoco. Allora, salami. Allora, il salamino curioso è quello che comunque sempre il cavalier Silvio Berlusconi tiene in tasca, perché risulta da retroscena che abbia convocato Angelino Alfano e gli abbia messo sotto il naso, Augusto peraltro naso, gli abbia messo sotto il naso il sondaggio da cui si ricava che nella ipoteposi, per dirla con Petrolini, prostorgando i prologomeni, volendo fare una scissione, se ne caverebbe con un misero 3%, e quindi ha comprato i salamini e non se ne vanta. No, mi veniva mentre Buttafuoco diceva questo, mi veniva in mente il magico Tognazzi Antani. E non dico altro. Se abbiamo ancora il tempo per una bolla. Beh, no, c'è... anzi, guarda, non ce l'abbiamo. Peccato perché era bellissimo. Al volo perché devo lanciare la storia. No, Tecno Titani, IBM riporta risultati non buoni. Apple taglia gli ordini dell'iPhone 5S. Sintesi, c'è un rallentamento nell'hardware, ma il software va che è una bellezza, si attendono risultati importanti da Google. Grazie, ecco, il 17 ottobre del 1933 nasceva a Milano Giorgio Ambrosoli, era l'eroe borghese come l'ha definito Corrado Staiano, e noi oggi con la storia di Mix24 curata da Marina Milone ripercorriamo la sua vita fino all'11 luglio del 79, quando viene brutalmente ucciso da un sicario venuto da New York. A seguire l'intervista con Michele Placido che ci svela dietro le quinte del film L'eroe borghese, appunto dopo il giornale radio.